Baker sedevano alle opposte. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. All'interno della casa di Daisy e Tom la sala Cremisi era un fiorire di luce. Tom e la signorina Baker sedevano alle opposte estremità del lungo divano e lei gli leggeva ad alta voce il Saturday Evening Post. Le parole mormorate e inespressive scorrevano in una melodia rasserenante. La luce della lampada, che scintillava sugli stivali di lui e si spegneva sul giallo foglia d'autunno dei capelli di lei, sfavillò lungo il giornale quando lei voltò una pagina con una rapida contrazione di muscoli nelle braccia snelle. Quando entrammo, lei ci tenne in silenzio per un po' con una mano alzata. Il seguito, disse gettando la rivista sul tavolo, al prossimo numero. Il corpo fece sentire le proprie ragioni con un movimento smanioso del ginocchio e lei si alzò. Le 10 in punto, notò, all'apparenza leggendo l'ora sul soffitto. Per una brava ragazza come me è l'ora di andare a nanna. Jordan gioca nel torneo domani, spiegò Daisy, a Westchester. Ma voi siete Jordan Baker? Ora capivo perché il suo volto mi era familiare. La sua espressione amabilmente sdegnosa mi aveva guardato da tante immagini in rotocalco della vita sportiva di Asheville e Palm Beach. Avevo anche sentito qualche storia sul suo conto, una storia sgradevole, malevola, ma di cosa si trattasse con esattezza non lo rammentavo più da tanto tempo. «Buonanotte», disse piano, «svegliatemi alle 8, vi spiace?» «Ammesso che ti alzi». «Mi alzerò, buonanotte, signor Carraway, ci vediamo presto». «Beh, certo che vi vedrete», confermò Daisy. «Stavo giusto pensando di combinare un matrimonio. Cerca di venire più spesso, Nick, e io troverò il modo di mettervi insieme. Che so, chiudendovi per sbaglio nel ripostiglio della biancheria, o magari vi spedisco in mare su una barca, o qualcosa di simile». «Buonanotte», gridò la signorina Baker dalle scale. «Io non ho sentito nulla». Disse Tom poco dopo. Non dovrebbero permetterle di girare il paese a questa maniera. Non dovrebbero chi? Domandò Daisy freddamente. La sua famiglia. La sua famiglia è una zia di 100 anni o giù di lì, senza contare che Nick velirà su di lei, vero Nick? Passerà qui un bel po' di fine settimana quest'estate. Credo che l'atmosfera di casa le farà molto bene. Daisy e Tom si guardarono per qualche istante in silenzio. È di New York, mi affrettai a chiedere. Di Louisville. Ci abbiamo trascorso insieme la nostra immacolata adolescenza, la nostra immacolata e bella. Ha intrattenuto Nick conversando a cuore aperto in veranda? Domandò Tom d'improvviso. Ti ho intrattenuto così? Daisy mi guardò. Non mi pare di ricordare, ma credo che abbiamo discusso della razza nordica. Sì, sono certa che è di questo che abbiamo parlato, sai, ci è venuto in mente all'improvviso e in men che non si dica, non credere a nulla di quello che hai sentito, Nick, mi ammonì lui. Dissi con naturalezza che non avevo sentito proprio nulla e di lì a pochi minuti mi alzai per rincasare. Mi accompagnarono alla porta e restarono fianco a fianco incorniciati in un sereno quadrato di luce. Mentre avviavo il motore, Daisy gridò perentoria. Aspetta! Ho dimenticato di chiederti una cosa ed è importante. Abbiamo sentito che ti sei fidanzato con una ragazza dell'Ovest. È vero, corroborò Tom gentilmente. Ci hanno detto che ti eri accasato. Calunnie. Sono troppo povero. Ma lo abbiamo sentito, insiste Daisy, sorprendendomi ancora con quel suo modo floreale di aprirsi. Ce l'hanno detto tre persone diverse, per cui deve essere vero. Ovviamente sapevo a cosa si riferivano, ma non ero fidanzato nemmeno lontanamente. Il fatto che i pettegolezzi dessero per pronte le partecipazioni era una delle ragioni del mio trasferimento. Non si può smettere di frequentare una vecchia amica solo perché la gente chiacchiera, ma d'altro canto non volevo che le dicerie finissero per costringermi al matrimonio. Il loro interesse mi toccò non poco e me li fece sembrare meno ricchi e distanti. Non di meno, durante il viaggio verso casa mi sentii confuso e un tantino disgustato. Mi sembrava che la cosa migliore per Daisy fosse andarsene via di corsa con la bambina al collo, ma pareva non essere sfiorata da simili intenzioni. Riguardo a Tom, non mi sorprendeva tanto che avesse una donna a New York, quanto che fosse rimasto così depresso dalla lettura di un libro. Qualcosa lo induceva a sbocconcellare i resti di idee andate a male, come se un vigoroso e brutale egotismo non bastasse più a saziare il suo cuore autoritario. Era già estate inoltrata sui tetti delle sale da ballo di campagna e davanti alle rimesse sul margine della strada, dove nuove pompe di benzina si ergevano rosse in pozze di luce. E quando raggiunsi la mia abitazione di West Egg, infilai l'auto sotto la tettoia e mi sedetti per un po' su un rullo compattatore abbandonato nel giardino. Il vento era calato, lasciando una notte di luce e rumori, battiti d'ala tra gli alberi e un persistente suono d'organo, come se il mugghio della terra gonfiasse di vita le rane. La sagoma di un gatto fluttuò al chiarore della luna e nel voltare il capo per seguirla con gli occhi mi accorsi che non ero solo. Una cinquantina di metri più in là, dall'ombra della villa vicina, era emersa una figura che, in piedi e con le mani in tasca, contemplava i granelli argentati delle stelle. Qualcosa nelle movenze pigre e nella sicurezza con cui i piedi poggiavano sul prato suggeriva che si trattasse del signor Gatsby in persona, uscito per determinare quale fosse la sua parte di cielo locale. Decisi di chiamarlo. La signorina Baker mi aveva parlato di lui a cena ed era un buon pretesto per presentarsi, ma non lo chiamai, perché all'improvviso diede un segno di quanto fosse appagato dalla propria solitudine. Allungò il braccio verso l'acqua scura in modo strano e quantunque fossi lontano da lui, avrei giurato che tremasse. Senza volerlo lanciai uno sguardo nella direzione del mare e non distinsi null'altro che una luce verde, minuta e distante, forse l'estremità di un molo. Quando tornai a voltarmi verso Gatsby, lui era svanito e mi ritrovai ancora solo nella notte inquieta. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, maybe I'm weak, maybe I'm strong, but nevertheless, I'm in love with you. Maybe I'll win, maybe I'll lose, maybe I'm in for just crying the blues, but nevertheless, I'm in love. Più o meno a metà tra West Egg e New York l'autostrada raggiunge precipitosa la ferrovia e le corre a fianco per poco meno di mezzo chilometro, quasi volesse tenersi a distanza da un lembo di terra desolato. È la vallata di cenere, una fantastica tenuta dove la cenere cresce come grano, dando vita ad alture, colline e giardini grotteschi, dove la cenere assume sembianza di case, ciminiere e colonne di fumo, e infine, con uno sforzo d'ordine superiore, di uomini già in via di disfacimento che si muovono per l'aria polverosa. Di tanto in tanto una fila di vagoni grigi striscia lungo rotaie invisibili, emette uno stridio spettrale e giunge ad arrestarsi, e immediatamente gli uomini grigio-cenere le sciamano attorno armati di plumbe e vanghe e sollevano una nuvola impenetrabile che occlude alla vista le loro oscure operazioni. Ma sopra la terra grigia e gli spasmi del cupo pulviscolo che vi fluttua senza posa, si distinguono dopo un po' gli occhi del dottor T.J. Eckleburg. Gli occhi del dottor T.J. Eckleburg sono azzurri e giganteschi. Le sue retine sfiorano il metro d'altezza. Non si affacciano da un viso, ma piuttosto da un paio di enormi occhiali gialli poggiati su un naso inesistente. È probabile che ce li abbia messi un oculista strambo e mattacchione per incrementare i suoi affari nel distretto di Queens. Dopodiché deve essere sprofondato a sua volta nella cecità eterna, oppure si è trasferito altrove, dimenticando di portarli via con sé. Ma i suoi occhi, un poco sbiaditi per i tanti giorni sotto il sole e la pioggia, senza nemmeno una riverniciata, sovrastano ancora, pensierosi, il solenne immondezzaio. La valle di Cenere è cinta su un lato da un sudicio corso d'acqua, e quando il ponte levatoio è alzato per consentire il passaggio alle chiatte, i passeggeri dei treni in attesa possono ammirare lo squallido scenario per una buona mezz'ora. La fermata dura sempre almeno un minuto, e fu per questo che ebbi modo di conoscere l'amante di Tom Buchanan. Il fatto che ne avesse una veniva ribadito ovunque lo conoscessero. Gli amici si risentivano del fatto che si presentasse nei ristoranti alla moda in sua compagnia e, abbandonatala a un tavolo, si aggirasse tranquillo per il locale scambiando due chiacchiere con chi capitava. Sebbene fossi curioso di vederla, non avevo alcun desiderio di incontrarla. Ma successe. Un pomeriggio mi recai in treno a New York insieme a Tom, e quando ci fermammo in prossimità delle montagne di Cenere, lui balzò in piedi e, afferrandomi per il polso, mi trascinò via a forza dalla carrozza. «Scendiamo», insisté. «Voglio che tu conosca la mia ragazza». Credo avesse bevuto parecchio a pranzo, perché la sua determinazione nell'esigere la mia compagnia rasentò la violenza. L'arrogante assunto era che la domenica pomeriggio non avessi nulla di meglio da fare. Lo seguì lungo un basso steccato di legno imbiancato a calce, e una volta sulla strada procedemmo a ritroso per un centinaio di metri sotto lo sguardo fisso del dottor Ettleburg. Il suo edificio in vista era un piccolo isolato di mattoni gialli collocato ai margini della terra desolata, una sorta di compatta Main Street messa lì per offrire un minimo di servizi e contigua al nullo assoluto. Uno dei tre negozi che ospitava recava il cartello Affittasi, e un altro era un ristorante aperto tutta la notte, con una scia di orme di cenere che conduceva all'ingresso. Il terzo era una rimessa. Riparazioni George B. Wilson, compravendita auto, nella quale entrai a ridosso di Tom. L'interno era misero e spoglio. La sola auto presente era il rottame coperto di polvere di una Ford, acquattato in un angolo buio. Mi era appena passato per la mente che quella pallida ombra di rimessa dovesse essere una copertura e che di sopra si nascondessero appartamenti sontuosi e romantici, quando il proprietario apparve sulla soglia di un ufficio, strofinandosi le mani su uno straccio. Era biondo, un uomo anemico e sfiduciato, ma non privo di un qualche fascino. Nel vederci, un velato luccicore di speranza gli sprizzò dagli occhi cerulei. «Ciao, Wilson, vecchio mio», disse Tom gioviale, dandogli una pacca sulle spalle. «Come vanno gli affari?» «Non posso lamentarmi», rispose Wilson con aria poco convincente. «Me la vendi o no, quell'auto?» «La prossima settimana, ci sta lavorando il mio meccanico adesso». «Se la prende comoda, eh?» «No, per niente», disse Tom freddamente. «Ma se hai questa impressione, tutto considerato, forse è meglio che la venda altrove». «Non intendevo questo», si precipitò a spiegare Wilson. «Volevo soltanto dire che...» La sua voce si spense, e Tom lanciò occhiate impaziente per il garage. Quindi udii dei passi su una rampa di scale, e un istante dopo la massiccia figura di una donna oscurò la porta dell'ufficio. Era sui 35, vagamente robusta, ma portava la carne in eccesso con sensualità, come riesce a certe donne. Il viso, sopra un abito macchiato di crepe de chine blu scuro, non era illuminato dal benché minimo indizio di bellezza, ma la sua vitalità saltava subito agli occhi, quasi avesse i nervi del corpo in continua tensione. Accennò un sorriso e, con il lento incedere di un fantasma, passò oltre il marito e strinse la mano a Tom, guardandolo dritto negli occhi. Dopodiché si inumidì le labbra e, senza voltarsi, parlò al marito con voce bassa e ruvida. «Vai a prendere delle sedie, che dici? Così qualcuno potrà sedersi». «Oh, certo», convenne Wilson all'istante, e andò verso il piccolo ufficio, confondendosi subito con le pareti color cemento. Una polvere cinerea e biancastra gli velava la giacca scura e i capelli spenti, così come patinava qualunque cosa nelle vicinanze, fuorché la moglie, che si avvicinò a Tom. «Voglio vederti», disse Tom deciso. «Prendi il prossimo treno». «Va bene. Ti aspetto accanto al chiosco dei giornali a livello di sotto». Lei annuì e si scostò nel momento in cui George Wilson riemerse dall'ufficio con due sedie. L'aspettammo in fondo alla strada, lontano da sguardi indiscreti. Mancavano pochi giorni al 4 luglio, e un bambino italiano, grigio e ossuto, stava sistemando dei petardi lungo il binario. «Posto orribile, eh?» disse Tom, scambiando un'occhiata di disapprovazione con il dottor Ettleburg. spaventoso. Le fa bene cambiare un po' aria. Il marito non ha nulla da obiettare. Wilson. Crede che vada a trovare sua sorella a New York. È così tonto che manco si accorge di essere vivo. Così io, Tom Buchanan e la sua ragazza andammo insieme a New York. Non proprio insieme, a dire il vero, già che la signora Wilson ebbe la discrezione di sedersi in un'altra carrozza. Tanto si sentiva di concedere Tom alla sensibilità di quegli abitanti di East Egg che potessero trovarsi sul treno. Lei si era cambiata d'abito. Ne indossava ora uno di mussola marrone a disegni che le tirò sui fianchi larghi quando Tom l'aiutò a scendere dal vagone una volta giunti a New York. Comprò una copia di Town Tuttle e una rivista di cinema all'edicola, mentre all'emporio della stazione prese una crema per il viso e una boccetta di profumo. Al piano superiore, nel solenne rimbombo della strada, lasciò sfilare 4 taxi prima di sceglierne uno nuovo, color lavanda con tappezzeria grigia, e all'interno di questo sgusciammo via dalla massa della stazione, tuffandoci nel sole splendente. Ma all'istante, si scostò dal finestrino e, piegatasi in avanti, bussò sul vetro divisorio. «Voglio uno di quei cani», disse tutta infervorata. «Ne voglio uno da tenere qui, nell'appartamento. Sono carini da avere un cane». Tornammo indietro, al punto in cui si trovava un uomo anziano e brizzolato che vantava un'assurda somiglianza con John D. Rockefeller. In una cesta che gli penzolava dal collo erano accoccolati una dozzina di cuccioli appena nati di razza imprecisabile. «Di che razza sono?» domandò eccitata la signora Wilson, mentre il vecchio si avvicinava al finestrino del taxi. «Di tutte le razze. Quale preferisce, signora?» «Mi piacerebbe uno di quei cani poliziotti, ma immagino non ne abbiate di quel tipo lì». L'uomo scrutò dubbioso nella cesta, vi affondò la mano e ne estrasse uno che, preso per la collottola, non la smetteva di dimenarsi. «Quello non è un cane poliziotto», disse Tom. «No, non è esattamente un cane poliziotto», disse l'uomo con voce un po' delusa. «Ha più dell'Airedale». Gli passò la mano sul dorso che ricordava uno strofinaccio marrone. «Guardate il pelo, che pelo! Un cane così non dovrete mai preoccuparvi che si becchi un raffreddore». «Io lo trovo carino», disse la signora Wilson entusiasta. «Quanto vuole?» «Questo cane?» L'uomo lo scrutò con ammirazione. «Questo cane vi costerà $10. L'Airedale, perché c'era senza dubbio qualcosa dell'Airedale in quella bestiola, sebbene le zampe fossero d'un bianco stupefacente, cambiò mani e si sistemò in grembo alla signora Wilson, che rapita cominciò a palpeggiarne il pelo a prova di intemperie. «È maschio o femmina?» domandò con garbo. Questo cane qui è un maschio». «È una cagna», ribatté Tom deciso. «Ecco i soldi, comprateci altri 10 cani». Somehow I know at a glance the terrible chances that I will be taking. Avanzammo lungo la Fifth Avenue, così calda e soffice, pastorale persino in quella domenica pomeriggio estiva, che non mi sarei sorpreso se un vasto gregge di pecore bianche fosse sbucato da un angolo. «Ferma», dissi, «devo lasciarvi qui». «Ma nemmeno per sogno», si intromise subito Tom. «Myrtle ci resterà male se non sali a vedere l'appartamento, non è vero, Myrtle?» «Andiamo», sollecitò lei. «Telefono a mia sorella, Catherine. Gente che se ne intende sostiene che siamo tutte belle. Mi piacerebbe molto, ma...» Proseguimmo, tagliando ancora per Central Park in direzione dell'Upper West Side. Giunto alla 158esima, il taxi si fermò davanti a una lunga torta bianca costituita da una lunga serie di condomini. Omaggiando il vicinato con un'occhiata regale e compiaciuta per il ritorno a casa, la signora Wilson prese il cane e gli altri suoi acquisti, ed entrò, altezzosa. «Devo dire ai miei key di salire», annunciò mentre eravamo in ascensore. «E naturalmente dovrò chiamare pure mia sorella». Maybe I'll live a life of regret. Maybe I'll give more than I'll get, but nevertheless. But nevertheless, I'm in love.